America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Did have a stronger than expected ISM manufacturing number this morning. That may have helped a bit. The S&P meanwhile off about 12 points. Look at the Nasdaq though. Molte notizie economiche in the news oggi. Dati manifatturieri deludenti in Cina e Germania, diciamo, hanno preoccupato un pochino gli investitori. Borse europee incerte. Moody's ha declassato il Giappone, ha tagliato il rating di un gradino da A3 a A1, vendite al dettaglio deludenti per i dettaglianti americani e soprattutto nel post-Thanksgiving. Come sapete, il Thanksgiving c'è il Black Friday, che è questa giornata dove ci sono le vendite scontate, dove la gente va a fare grandi spese per i regali natalizi, si fanno provviste per poter comprare con uno sconto. In genere un barometro molto buono che dà un'idea di come andranno le vendite a Natale. Ebbene, questo barometro non ci ha dato indicazioni positive. Ecco, in coincidenza con questi due elementi, ieri a Washington c'è stata una grande celebrazione, la celebrazione di un'istituzione che credo più di ogni altra abbia contribuito alla ripresa economica degli Stati Uniti e, diciamolo, alla ripresa dell'economia globale. Naturalmente parlo della Federal Reserve, la banca centrale americana, che ha festeggiato ufficialmente ieri il suo 100° anniversario. In the labor market, conditions have improved further in recent months. Although the pace of job growth has slowed some recently. Ecco, grandi festeggiamenti. Ieri la Yellen non ha parlato, ha lasciato il podio ad altre, Stanley Fisher in particolare, però il simbolo della Fed oggi, del messaggio che la Fed sta portando, resta quello del primo governatore donna di questa istituzione che, visto che parliamo di storia, la Yellen ha fatto storia come prima donna e come persona illuminata che ha continuato lungo la linea politica di Bernanke con una politica accomodante che è riuscita in qualche modo a domare i mercati, a eliminare quelle che erano le preoccupazioni di molti analisti per un ritorno magari dell'inflazione e a simboleggiare, se volete, sul piano storico questo straordinario avanzamento della Banca Centrale Americana, della Riserva Federale. Due dati: fu istituita la Federal Reserve col Federal Reserve Act del 23 dicembre 1913, iniziò le sue operazioni nel 1916. La data formale però resta questa del 2014, quindi nel 1914. Ci sono stati percorsi molto complicati per arrivare alla creazione della Federal Reserve con due messaggi di fondo. Il primo: in fondo questa banca centrale ha soltanto 100 anni. Gli Stati Uniti ormai sono una repubblica di quasi 250 anni e però ci sono voluti 150 anni per arrivare alla creazione di una banca centrale. Questo ve lo dico perché la Banca Centrale Europea è giovanissima, l'euro entra in vigore, in circolazione nel 2000, quindi è un esperimento di 14 anni, un esperimento difficile, ma non dimentichiamo che gli Stati Uniti ci hanno messo 100 anni per arrivare dal punto di vista della gestione monetaria a livello federale dove sono arrivati adesso. Sentiamo Stanley Fisher, Vice Chairman della Federal Reserve, è stato governatore della Banca Centrale d'Israele, è un grande economista, professore all'MIT, ed è stato lui a parlare, a celebrare questo centenario. Sentiamolo. What I think we have now is a situation in which we understand the monetary policy aspects, what you can do with changing the interest rate. Ecco, Fisher ha fatto un discorso molto interessante con una prospettiva non soltanto storica, ma con una prospettiva che guarda in avanti. Che cosa abbiamo imparato dalla nostra storia, si domanda Fisher. Beh, abbiamo imparato tantissime cose, ma soprattutto ne abbiamo imparate due. La prima, che strumenti come il quantitative easing sono degli strumenti importantissimi per la gestione della politica monetaria, per intervenire sui tassi di interesse e far sì che l'economia possa trovare una sponda su cui poter crescere. L'obiettivo centrale della Fed resta quello della crescita, cosa che purtroppo per ora in Europa continua a non essere. La Banca Centrale Europea deve preoccuparsi soltanto dell'inflazione. Il secondo punto, di nuovo molto importante e che ci riguarda, ho isolato questi due punti perché secondo me sono fondamentali, importanti per noi, è quello, dice Fischer, di aver identificato un obiettivo flessibile per l'inflazione, con la possibilità di gestire questo obiettivo flessibile anche con elementi, con informazioni statistiche che abbiamo dall'output, quindi dalla crescita dell'economia americana. Di nuovo, l'elemento inflazione è centrale. Come sappiamo, l'America ha premuto sull'acceleratore per far crescere la sua economia e invece l'Europa ha messo il piede sul freno. They're the ones that are probably fundamentally insolvent, where there's going to have to be a debt write down, and that would be Greece, Portugal, Ireland. And then they're the ones that can probably make it through. Krugman, Paul Krugman, grande economista, premio Nobel, ha scritto un articolo proprio ieri, pubblicato ieri sul cartaceo, era già in giro su internet, ma un articolo in cui attacca soprattutto la Germania, non soltanto l'Europa, perché Krugman ritiene che l'Europa sia un po' succube, vittima della Germania, e dice che insomma qui si stanno ripetendo degli errori veramente madornali che sono stati commessi in passato, quelli cioè di sopravvalutare qual è l'impatto di un rischio inflattivo, e in Europa, dimostra Krugman, c'è deflazione, non inflazione, quindi svegliatevi, e una preoccupazione eccessiva per l'andamento delle finanze pubbliche. Quando si è in crisi bisogna andare in disavanzo, inutile tenere un disavanzo ancorato al 3%. L'America ce lo insegna, ha avuto un disavanzo sul PIL addirittura del 10% e adesso questo disavanzo è sceso al 4%, ma nel frattempo hanno creato quasi 8 milioni di posti di lavoro e l'economia cresce. Chissà che un giorno o l'altro a Berlino questo messaggio di Krugman, che è poi lo stesso messaggio che ascoltiamo da anni in arrivo dall'America e che spero di avervi trasmesso più volte, chissà che a Berlino finalmente non si decida di ascoltarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive i tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, crescita, e ci siamo accorti che c'è un gap da colmare fra Europa e Stati Uniti quando si parla di crescita, e con una differenza, che l'America cresce e noi no. E dunque, come canzone, sperando che il messaggio americano venga recepito in Europa e che si crei un ponte transatlantico, Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, un ponte su acque turbolente. When you're weary, feeling small, when tears are in, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Amen.